Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Io e te abbiamo una faccenda in sospeso. Parole sacrosante. Ahimei, ti ha insegnato la tecnica dell'esplosione del cuore con 5 colpi delle dita. Sì, certo. Perché non me l'hai detto? Non lo so. Perché sono una persona cattiva. No. Tu non sei una persona cattiva. Tu sei fantastica. Sei la persona che preferisco. Peccato che di tanto in tanto sai essere una gran troia. La vendetta è un piatto che va mangiato freddo. Questo lo dice naturalmente chi è professionista della vendetta. Chi pensa che una parte cospicua della propria vita possa essere impiegata nel pensare, immaginare, vedere, mettere a punto i sistemi per vendicarsi rispetto a qualcuno che gli ha fatto un torto. La vita, ahimè, è costellata di persone che ci fanno torti. La cosa migliore, secondo me, è elaborare e dimenticare. Perché? Perché l'uomo civilizzato non deve vendicarsi. Perché l'uomo civilizzato ha degli strumenti culturali per capire se possiamo in qualche maniera arginare questa nostra sorta di istinto belluino che ci porterebbe a spezzettare, a fare a pezzi, a uccidere, e molti lo fanno ancora, se non si parlerebbe di delitti in seno alla famiglia. Uomini incapaci di gestire l'abbandono da parte di una donna, cosa fanno? La massacrano, la uccidono. Poi qualcuno giustifica anche questo, ma perché? Perché si vendicano del fatto che questa donna non possa assolutamente percepire un mondo senza di lui. E alla stessa maniera, ieri parlavamo appunto di cose brutte fatte in rete, gente che ruba dati sensibili ad altre persone, gente che mette in rete foto intime personali e che fa delle cose terribili pensando magari che fosse un gioco e con questo distrugge la vita di altre persone, hanno fatto sì che chiamasse proprio in coda questo ascoltatore. E poi io l'ho sentito, l'avrei usato per altre occasioni, ma in questo momento mi sta ascoltando, è al telefono e è pronto a raccontarsi la sua storia, che io già in precedenza comunque ho saputo più o meno di che si tratta, e immagino che sarà qualcosa che vi scioccherà moltissimo. Cominciate a chiamare 800 24 00 24 e sentite dalla voce di questa persona quello che è stato l'iter della sua possibilità di percepire o di concepire una vendetta nei confronti che gli ha fatto molto male, semplicemente rubando delle cose dal suo Sancta Sanctorum, che in fondo è la memoria del suo telefono, dove era chiusa tutta la sua vita. Caro amico, se sei in onda comincia a parlare, oggi è una situazione molto drammatica e molto problematica, però fai sentire la sua voce, se ci riesci comincia a raccontare la tua storia. Niente, è accaduto che io a un certo punto, io andavo sempre su Facebook, no? Avevo delle amicizie, avevo tanti amici, mi divertivo anche se ho 51 anni, però sai, pensi sempre, sono amici fittizi, perché effettivamente sono amici fittizi, non è che li incontri per strada. Cioè non era gente che tu conoscevi di persona? No, ma no, sono amici che ti sei fatto tramite Facebook, no? E a un certo punto io mi vedo che ho la galleria scaricata, ok? Quella che c'è su Facebook. Tutta la galleria delle tue foto? Tutta la galleria del cellulare me l'hanno scaricata, ok? E me l'ha scaricata una persona. Cioè, perché poi si... E come ha fatto? Tu gli avevi dato le tue password, come ha fatto a scaricartela? No, io non ho dato nessuna password, però ci sono degli hacker che sono talmente in gamba, talmente bravi, che riescono a fare queste cose, capito? Io non lo sapevo. E sulla galleria di Facebook avevo la foto di mia nipotina che aveva 2 anni. Sai quando sono ancora, che non hanno il pannolino, che sono belle da vedere, che sono... Vabbè, c'è la foto della bambina fatta in famiglia, tua sì, nipote. In famiglia, però è sempre una bambina, capisci? Dopo la foto con la mia ragazza, magari un po' particolare, cioè erano tutte cose. C'è foto anche con la tua fidanzata, avevi, diciamo? Sì. Vabbè, sì. Ce l'hanno tutti, è normale, non è niente di strano. Sì, ho capito, però in pose un po'. C'è foto intime con la tua fidanzata. esatto, foto intime. Ma questo tu l'avevi detto a qualcuno che aveva queste foto nel cellulare? Di solito, ma no, no, non l'avevo detto a nessuno, però su Facebook magari qualcuno è andato a vedere le mie foto, capito che... Ma tu le avevi anche pubblicate su Facebook, magari non visibili? No, io ne ho pubblicate 4 o 5. Non visibili agli altri, non visibili. No, erano solo foto mie personali, quelle che ho pubblicato, foto della mia persona e basta, di casa mia e basta. Per il resto io non avevo pubblicato niente, perché erano cose che erano troppo personali e non volevo farle vedere agli altri, capisci? Mm. Ecco, invece io a un certo punto mi sono trovato che non avevo più la galleria, era vuota, completamente vuota. Ah, te l'hanno proprio tolte, prosciugato il tuo telefono? Mi hanno prosciugato il telefono. E non avevi un backup te del tuo telefono? Sì, ho provato a fare il backup, il ripristino, tutto quanto, però non ce l'avevo più le foto. Beh, qualcuno che era proprio entrato, diciamo, nel sistema operativo del tuo telefonino, ti ha fatto quello che voleva nel tuo telefono. Esatto, esatto. Io ho dovuto andare da un mio carissimo amico che è un operatore di cellulari, di computer, mi ha ritrovato fuori tutte le foto. E dove le ha ritrovate? Nel web, perché le foto devi sapere che non spariscono mai. Ma certo, è andato tramite Gmail, è andato a ritrovarle nel backup del tuo telefono. A ritrovarle nel web, praticamente, no? E mi ha ripescato tutte le foto. E alla fine è riuscito a dirmi anche la mail del personaggio che mi ha prosciugato il telefono. Ma tu hai capito chi è questa persona? Certo. Ma perché l'ha fatto? Lo conoscevi? Aveva dei motivi particolari? Era un'amicizia che avevo su Facebook, è per quello che dico state attenti, sì, ragazzi. Ma amico, fammi capire, fatti una cosa del genere, avevi scatenato in qualche maniera la sua curiosità, avevi parlato con lui, gli avevi spiegato che avevi delle foto nella tua galleria, qualcosa, come mai proprio gli è venuto in mente andare a guardare dentro il tuo telefono? Non lo so, sinceramente non so il motivo, perché le mie foto erano una mia, una con un mio amico politico, diciamo, ok, e un'altra era con la mia ragazza, assieme alla mia ragazza, però le uniche foto visibili, quindi sì, visibili e basta. Ma che uso ne ha fatto? Tu che uso ne ha fatto, lo sai, dove l'ha messa, l'ha ripubblicata da qualche parte, l'ha fatta circolare, se l'hai solo tenuta? Le ha fatte circolare per tutto Facebook. Ah, l'ha mandata a tutti? Per tutto il web, sì. Con scritto che hanno le tue, cioè riconoscibile che con scritto sopra che appartiene. Sì, si riconosceva che sono io e sono geloso di te, ok? Vedo una foto magari e dico a Facebook che c'è una foto di... E la segnali, la segnali e te la tolgono. La certo. Segnalo e te la tolgo. Facebook, e Facebook te la blocca. Se io dico a Facebook c'è una foto di nudo di Gianluca, ok? Sì. Bon, che tu hai la giacca di pelle e sei coi jeans, loro comunque la considerano segnalata, sì. Loro te la bloccano. E vabbè. Vabbè, ma le tue foto allora, come mai non sono state bloccate? Nessuno ci ha fatto caso? Perché io non cosa gli dico? Che mi hanno tolto tutta la galleria. Sì, ma queste foto circolano ancora, le foto di te e la tua fidanzata nudi circolano ancora. No, adesso sono riuscito a toglierle tutte quante tramite il mio amico. Tramite il mio amico. E quando erano su Facebook, la gente che diceva, come le commentava? Ah, risatine, guarda questo, guarda quella, che troia che è, che porca che è. Senti, ma la tua fidanzata come l'ha presa questa cosa? Gli ho detto, stai tranquilla che adesso... Beh, tranquilla, si sarà arrabbiata. No, io l'ho trovato comunque chi è stato. Vabbè, però intanto le foto sono circolate, no? Sì, le foto sono circolate, purtroppo sono circolate. E a lei cosa dicevano? Non si trovava in imbarazzo il fatto che c'erano queste foto? Erano molto, diciamo, intime queste foto? Ha fatto come ho fatto io, che ho fatto 3 mesi che non ero più su Facebook. Però le foto giravano lo stesso, non c'eri tu, ma le foto c'erano. Lo so, però... Cioè il rapporto è rimasto lo stesso, non t'ha lasciato, non sarà arrabbiato. Per me lei sì, perché sono stato bidonato tanto io quanto è stata bidonata lei, capisci? Beh, fermati un attimo adesso, chi ci ascolta e sta sentendo la tua storia, è giusto che poi abbia possibilità di intervenire. 800240024, che vi sembra di questo fatto? Rientra comunque in qualcosa che ha avuto a che fare con la vostra esperienza? Anche a voi è successo di sentirvi derubati di qualcosa di molto personale che avete affidato magari al vostro telefono? E naturalmente, chiamando all'800240024, potete aggiungere il vostro contributo. Però andiamo avanti nella storia, adesso c'è il punto che più mi interessa. Ecco, una volta che tu hai capito chi era la persona che ti ha fatto questo furto, e come ti sei comportato? Cosa gli hai fatto? Sono andato a trovarlo. Ah, sei andato a trovarlo? Sì. Perché stava nel tuo stesso paese? Stava? No, abitava... Ti dico anche il paese. No, dimmi, no, voglio sapere il paese, non lo, ma dimmi quanto distante da casa tua, ecco, perché 50 km da casa mia. Ah, quindi sempre tua zona. Quindi tu l'hai identificato, sei andato a casa sua, e questa è la parte più interessante. E cosa è successo? Signor Tardi Italia, mi fa: sì, sono io, perché? Che problemi ci sono? E beh, gli hai domandato prima di cominciare a picchiarlo, gli hai chiesto magari ragione di perché l'ha fatto. E gli ho detto: io sono quello che di cui è scaricato tutta la galleria, che me l'hai messa su Facebook e su tutto il web. E lui che ha detto? Come ha risposto? Si è messo a ridere. Ah, rideva. E mentre rideva, come è scattata la violenza? Vabbè, cioè, a quel punto tu cosa avresti fatto? No, no, io non so, domande, io faccio domande, non lo so. Non che... E lui ti ha detto scusa, non lo faccio più, oppure... No, proprio non ce l'aveva neanche per l'anticamera del cervello. Di chiedermi scusa. Cioè, prima di picchiarlo, non hai provato a capire perché l'ha fatto, che magari era interessante capirlo, no? Io gli ho chiesto, effettivamente, gli ho detto: ma è stato uno sbaglio? Sei andato sopra, hai premuto qualcosa? Com'è successo? E lui continuava a ridere, e lui rideva. Rideva? Ma quanti anni aveva questa persona? Aveva 20 anni. Ah, un ragazzino. Ma stava con la famiglia in casa o viveva solo? Non lo so. In quel momento era solo, comunque. Era da solo, sì. E quindi poi hai cominciato a picchiarlo così? No, io ero lì con un paio di amici. Per essere sicuri siete andati in tre, comunque. È un pestaggio, allora, non è che... No, io ho detto: andato, io vado via, arrangiatevi voi, non voglio neanche sapere. Ah, quindi hai lasciato i due a picchiarlo. I due erano, sì, diciamo, specializzati in questo tipo di lavori? Erano grossi? No, ormai dimmela fino in fondo. Tu hai portato due amici belli e robusti. Ok, diciamo che io faccio un lavoro un po' strano, che non potrei dirti, ok? E riesco a trovare queste persone. Fai il poliziotto, che fai? No. La guardia giurata, qualcosa del genere. Io lavoro, vado all'estero, vado... Vabbè, viaggi. Cosa sono fatti tu? Non mi interessa il tuo lavoro, non lo voglio sapere. Comunque tu hai trovato due amici compiacenti, dicendo: bisogna dare una lezione a questo. Beh, non hanno un po' esagerato, perché 40 giorni sono lesioni gravissime. No, sono lesioni gravi, sì. E, ma cosa gli hanno, cosa hanno rotto? Le braccia, le gambe, la faccia? Cosa le gambe. Ah, gli hanno spezzato le gambe? Sì. Beh, è una cosa grave, però, scusa. Hai voluto sapere tutta la verità? No, cioè l'hanno gambizzato. Ma come? Con mazze da baseball? Come hanno fatto per spezzare le gambe? Non è facile. No, con... calci, pugni, l'hanno rotto, sì, insomma. L'hanno proprio rotto. E lui non ha fatto denuncia? Beh, se faceva denuncia lui, facevo denuncia anch'io, perché a quel punto lì... Era più grave il tuo reato, ragazzi, sono lesioni gravissime. Lui poteva essere a tutto da vedere, da opinare, no? Vabbè, comunque, no. Com'è finita adesso? Lui che ha fatto l'ospedale, come fai a saperlo? Poi è seguito la sua vicenda? Sì, ho fatto l'ospedale, dopo è tornato a casa, gli ho detto: prova a farlo ancora. Ritornato dopo la lezione, sei tornato a dirglielo? Sì, gli ho detto: adesso provo a farlo ancora e non saranno più 40 giorni, gli ho detto. Vabbè, più di 40 c'è la morte, c'è l'omicidio, perché 40 giorni guarda che tanto, No, 40 giorni, ma era solo con le gambe in alto e basta, non è che l'ho fatto, che l'ho distrutto, vero? Solo le gambe, cioè ha lasciato le mani. Solo le gambe. Ma lui cosa ha detto dopo? Quando gli hai detto rifallo ancora, ha detto: no, non lo faccio più. No, allora mi ha detto che era dispiaciuto, che questo, che quell'altro, di non preoccuparmi, che gli dispiace molto che le foto siano andate sul web, che siano andate anche su Facebook. Al che gli ho detto: guarda, non ti preoccupare per le foto mi arrangio io. Difatti mi sono arrangiato col mio amico e sono riuscito. Quindi siete diventati quasi amici dopo, non c'era più motivo. No, amici no. Però diciamo, c'è un buon rapporto dopo, via. Diciamo che adesso lui ha capito che, insomma, prima di dire la parola amici, quando si è su Facebook, la parola amici è una cosa grossa. Però ogni tanto vi sentite, diciamo, gli chiedi come stai? No, non l'ho più sentito. Però un po' ti ha fatto pena vederlo lì con quelle gambe attaccate al soffitto, tutto ingessato, no? No. Non ti ha fatto pena? Penso che fosse la cosa più giusta da fargli in quel momento. Ma gli hai fatto una foto con lo smartphone di lui con le gambe ingessate, così per ricordo? Posso fare quelle foto. Non ti è venuto perché in mente. Dopo vengono. Vabbè, e comunque ti sei fatto giustizia da solo, in fondo sì, l'hai risolta a modo tuo. Ero potenzialmente in grado di potermelo fare questa cosa. E gli amici quanto hanno voluto per fare questo lavoro? L'ha fatto gratis? Niente. Caro amico, gli amici non hanno voluto niente, ma penso che questo racconto, facciamo finta che è una tua fantasiosa invenzione. Facciamo finta che questa cosa è la concretizzazione onirica di una vendetta che volevi svolgere. Però io vorrei a questo punto, se è in ascolto, se qualcuno ha modo poi di fargli ascoltare questa puntata, forse mi ascolta, l'amica e collega selvaggia con cui ho parlato ieri, che si occupa tanto e subisce tante ritorsioni proprio per il fatto che entra nei gruppi chiusi di Facebook, dove persone sistematicamente, migliaia e migliaia di persone, prendono foto, rubano foto, trafficano foto di persone in intimità e le usano per fare delle violentissime battaglie e violentissime maniere per far del male alle persone. Mi piacerebbe che lei prendesse, facesse un file, un piccolo MP3, semplicemente con il racconto terribile da cui bisogna prendere le distanze del nostro amico, e lo mandi in quei gruppi. Faccia sentire a questi signori forzutissimi che si nascondono dietro sigle come Pastorizia, che si sentono talmente maschi e talmente uomini di voler tornare ai periodi arcaici in cui gli uomini pascolavano le pecore e si ingroppavano le donne fuggenti, tornare appunto alla basica mascolinità. Ecco, facciano sentire la storia, che potrebbe esserci che qualcuno un domani vi bussa alla vostra porta, si presenta con due amici dietro e poi vi trovate con le gambe appese al soffitto e potrete dire che vi è andata bene. Edoardo, buongiorno. Buongiorno. Ha sentito questa vendetta? Sì, ho sentito, è drammatica. È un po' esagerata, è drammatica, sì. Però facciamo finta che sia una cosa non avvenuta. Io no, purtroppo infatti, penso sia avvenuta. Pensata, sì, un io sogno, penso qualcosa mi un fa sogno pensare. Mai realizzato. Ecco, sarebbe molto didattico diffondere comunque questo messaggio nei gruppi in cui le persone pensano di poter avere l'impunità, che faccia parte comunque di un lecito diritto di esprimere la propria volontà, che potrebbe accadere anche questo, perché il matto c'è sempre, quello che vi bussa alla porta e vi dice perché l'hai fatto, e se ne va che voi vi trascinate in una pozza di sangue, come appunto faceva David Carradine quando Kill Bill gli ha fatto i 5 colpi che spezzano il cuore, ecco, qualcosa del genere. Allora, pensiamo alla tua vendetta, Edoardo. No, la mia vendetta, io abborro la violenza completamente, io sono una persona molto, molto pacata, molto calma. Come tutti i serial killer, però sono calmissimo. No, ma il vero assassino è una persona normale, certo. Sono abbastanza rispettato, conosciuto come una persona molto razionale. Sono esattamente le cose che dicevano, che dicevano i giornali del signore che ha ammazzato la sorella, gli ha segato le gambe e l'ha buttata nel cassonetto due settimane fa. Sì, ricordo questo particolare. Beh, allora lei invece come ha espresso la sua tranquillità, la sua calma? Ma la mia calma, prima di tutto devo dire una cosa. All'inizio ho meditato delle vendette terribili, veramente, delle cose... Ma a fronte di quale torto subito, però? Cioè, mi è stata rubata completamente la vita. Ma come? In che senso? Chi l'ha rubata? Nel senso che anni fa, qualche anno fa, io vivevo fuori, vivevo a Bologna in pianta stabile, adesso viaggio un po'. Vivevo a Bologna e la mia mamma all'epoca era ancora in vita, aveva una Golf che continuava a dirmi che si era innamorata di me guardando le mie foto. La mia mamma era carina questa Golf? Sì, a me piaceva. Ma era una Golf italiana o veniva da un paese dell'est? No, una persona italiana, normale, eccetera. Una persona che poi ho scoperto essere molto camaleontica. Vabbè, comunque gli già sono innamorati. Beh, non c'è niente di male. Vabbè, niente, lei era innamoratissima di queste foto, eccetera. Mia mamma gli ha detto: senti, ti pago il viaggio, vai a conoscere mio figlio a Bologna, eccetera. Beh, gliel'ha messa in bocca, però, scusi, ovvio, gliel'ha servita su un piatto d'argento. Me l'ha servita su. Quindi è arrivata calda calda la colf a casa sua. Sì, per conoscersi, io ero vedovo. Ah, beh, la mamma ha pensato si consola, povero figlio vedovo. Avevo una figlia che seguivo, adesso mia figlia, grazie a Dio, è plurilaureata. Vabbè, le mando a casa la colf per un suo sfogo consolatorio. Ma così, per vedere un attimino. Ma venne l'atto consolatorio? Sì, ma dopo quanti minuti avvenne l'incontro? Diciamo che si è concessa a me dopo mezz'ora che era a casa. Vabbè, gli ha data subito. Vabbè, d'altronde la mamma l'aveva ben istruita, vai e consola il mio figliolo. Vabbè, non lo so adesso, comunque sia, io vabbè, non avevo scusi, faccio capire. Vabbè, arriva una a casa, dopo mezz'ora gliela dà, quindi è normale scopra questo. Ma vabbè, io pensavo che fosse veramente innamorata, ed è come dire la verità, anch'io all'inizio mi sono innamorato di lei. No, lei si è innamorato, però scusi una che... Certo che mi sono innamorato. Ci sono dei momenti in cui gli amori sono talmente fulminanti, che una persona tiene, ma... Un minimo, una persona che l'ha vista su delle foto arriva, bussa alla porta, entra, si leva le mutande, dice sono tua. Non è amore, è passione. È passione. Vabbè, comunque. Vabbè, è andata bene, finora è andata bene. E dov'è siamo il problema? Siamo anche sposati. Ah, l'ha anche sposata. Vabbè, lei è pazzo, certo. Però. Scusi, ma era vedovo lei? Sì, ero vedovo. Vabbè, se era già allontanato da sé, diciamo, una circostanza vincolante nella vita, ci si va a rimettere un'altra volta. Che avevo 46 anni, non ero così grande, ero vedovo già da un po' di anni perché... E non stava bene da vedovo? Mia moglie è morta giovane. Sì, stavo benissimo. E allora chi l'ha fatto fare di sposare la colf, scusi? Ripeto, mi sono innamorato di questa persona molto camaleontica. Allora, fermo un attimo, Edoardo, prenda respiro, fermiamoci un momento ludico, sì. Bello. Arriva a casa, era bella questa donna? Carina, simpatica. Come si dice nelle patrie galere, ci sono situazioni in cui lasciamo perdere, è una frase molto brutta, ce l'ho sulla punta della lingua, ma ogni anfratto rappresenta un porto per un vascello che si perde nei flutti. Stallone, riecco la tua giumenta. Stallone. La mia lettera! Mi dia la lettera! Questa è una triste vicenda che ci fa riecheggiare le memorie del mai troppo compianto Fantozzi, quando a un certo punto Fantozzi sbaglia le sue analisi con quelle di un prete, pensa di avere un tumore, quindi è condannato a morire. La moglie, la signora Pina, dà fondo alle sue finanze per farlo finalmente contento, gli fa trombare la signorina Silvani, la convince al telefono per 2 pippi, 2 milioni, poteva concedersi canalmente a Fantozzi giustificando il fatto, ma vedrà che tanto è così piccolo, dura talmente poco, e questa decide che gli servono i soldi per, non so, farsi la chirurgia plastica, non so bene. Questo mi fa pensare a questa fantastica storia. Oggi siamo partiti sulla vendetta, ma dovremmo cambiare immediatamente il tema trasmissione e parlare cuore di mamma. Mi stanno arrivando SMS di persone che chiedono riferimenti telefonici della madre del signor Edoardo. La madre del signor Edoardo, pensando che lui era già troppo tempo che si affliggeva nella sua vedovile solitudine, gli manda a casa la colf pronta, calda, che diceva innamorata da alcune foto del figlio. La colf gli si concede carnalmente dopo soltanto 28 minuti, tolgo i 2 minuti necessari comunque per la preparazione rituale all'intima d'azione, e il signor Edoardo si innamora perdutamente di questa colf e se la sposa. Edoardo, dov'è l'aspetto vendicativo a questo punto? L'aspetto vendicativo è per quello che mi ha fatto dopo. Un grande amore, comunque è nato l'inizio è stato un idillio, sì, fantastico. È stato un grande amore, io veramente innamorato. E dopo... Allora, e la mamma era contenta? Sì, la mamma era molto contenta. È venuta al matrimonio, sì, tutta contenta. Sì, è venuta al matrimonio, è stata una cosa meravigliosa, tutto. Ma la colf continuava a fare i lavori a casa, o mai che era moglie non li faceva più, o li faceva gratis? No, non li faceva più, poi io ero benestante all'epoca. Comunque due piccioni con la fava per la mamma, non paga più la donna di servizio e mette a posto il figlio. No, poi lei è venuta a vivere a Bologna, quindi... grazie, ormai c'è la badante gratis. Dopo 2 mesi dal primo incontro mi dice sono incinta, ha detto va bene. Dai oggi, dai domani, alla fine potrà succedere. Ci sposiamo, succedere. Non è un problema. Ah, lei l'ha sposata a un matrimonio riparatore? veniva quasi tutti i fine settimana a spese di mia madre, quindi giustamente non gli pagava, diciamo, la trombata del sabato a spese della mamma. Sì, però lei, scusi, era anche benestante. Scusi, lei, Edoardo, ha detto di essere benestante, perché almeno ero benestante, ormai non più. No, tremo a pensare dove sono finiti i suoi soldi. Vabbè, arriva un giorno la Colf, amante in questo punto di vista. Posso dirle una cosa, all'epoca possedevo una Porsche, per darci un'idea. Ma lei con la Porsche, scusi, doveva proprio andarsi a sfogare con la donna di servizio, mandata alla mamma. Avevo mille altre storie, nessun problema. Soltanto che... Ma che c'aveva questa donna più delle altre? Non lo so. Cioè, a me pensare innamorare. Che una donna me la manda la mamma, me lo ammoscerebbe fino alla fine dei miei giorni, onestamente. Era camaleontica, si trasformava in una persona stupenda. È perché poi ci sono delle cose dietro che adesso non posso narrare. No, le cose dietro, no, la radio non si possono dire, ma immagino c'erano delle cose dietro in questa donna che le hanno fatto perdere la testa. E quindi che è successo? E quindi niente, incinta, vabbè, ok. È rimasta incinta. Va bene. Dopo... Sicuro che il padre era lei, non ha voluto pensare magari... No, non ho voluto pensare assolutamente niente, ero talmente... Mia figlia, la grande, che all'epoca era appena laureata in criminologia, profile, mi ha detto: non è la donna per te, stai attento perché... Aveva studiato bene la figlia, bene. Sì, poi si è laureata anche in medicina, comunque lasciamo stare. Comunque l'aveva già inquadrata, cioè guarda che l'aveva questa... già inquadrata e me lo disse più di una volta. E lei, comunque... lei era talmente preso dall'ebbrezza amorosa. Sì, poi dopo un altro mese mi chiama, guarda, ho perso il bambino, eccetera. Beh, però scusi, questo è esattamente quello che fa la signorina Silvani, fingendo di essere incinta di Fantozzi con un pallone sotto, va addirittura, perché voleva farsi pagare da Fantozzi il mantenimento del figlio. È una situazione super Fantozzi. E poi? Sì, proprio super fantoziana. Lei ha fatto finta di essere incinta? No, era incinta veramente, perché poi per quanto riguarda il fatto che ha avuto bisogno di cure mediche, la mandai, io ero a Bologna, lei era in Sardegna, e la mandai da un mio amico che fa il ginecologo, le fece il raschiamento, tutto quanto. Fece un aborto, non è che perse il figlio? Sì. No, ma un aborto spontaneo, perché c'erano problemi di incompatibilità di sangue, eccetera, vabbè, che poi sono stati risolti. Comunque sì, mi ha detto: adesso tu non mi sposi più, abbiamo già fissato tutto. Ho detto: ma chi te l'ha detto? Io ti sposo perché sono innamorato di te, ma ci mancherebbe altro. Okay. Per me è normale, niente. Ci siamo sposati, un bellissimo matrimonio, eccetera. Dopo 3-4 mesi dal matrimonio cominciava a dirmi: guarda che tanto dopo 3 anni, in tono scherzoso, no? Dopo 3 anni io chiedo il divorzio perché intanto ho acquisito tutti i tuoi, benefit che mi verrebbero da divorzio. Cioè, aveva fatti i conti, 3 anni di matrimonio, poi pigliava più soldi. E poi era a posto, lei sa, ma io credevo che scherzasse, non è che sì, ci mettevo lì, eccetera. All'epoca lavoravo in una grossa multinazionale, ero responsabile dell'assistenza tecnica elettronica, perché io mi occupo di elettronica. Ma vedi come siamo veramente scissi. Lei è una persona di grande responsabilità, va in mano la gestione di una grandissima azienda, ma era così sprovveduto nelle cose amorose, di non capire che in realtà c'era un inganno dietro. Sì, perché le devo dire la verità. La mia prima moglie, di cui ero follemente innamorato, è stata, diciamo, il mio primo vero amore importante, a parte gli amorucchi da piccoli, però il mio primo vero amore fu quello. E qual era la differenza con la prima moglie? No, la differenza l'ho scoperta dopo, che la mia prima moglie era una gran signora, questa purtroppo no. Cioè, nel senso, la prima moglie centellinava e questa dava generosamente, in questo senso? No, assolutamente, non è quello il punto. Il punto è una questione di, forse, di intelligenza, di responsabilità. Vabbè, noi non rimpiangiamo sempre le persone che perdiamo, diciamo, questo è vero. Sì, gli amori sì. perduti sono sempre gli amori della vita. Le persone che non ci sono più sono le persone insostituibili. In realtà, magari nel tempo di sua moglie sarebbe anche stufato, se ne faccia una ragione, succede. Certo, ma la cosa tragica di tutta questa situazione è la premeditazione di Coffei nei miei confronti per distruggermi la vita. Cioè, lei mi ha portato via 50 anni di vita. Ma cosa è successo in un secondo? Allora, per prima cosa ha ipotizzato che io avessi dei problemi, e mi convince ad andare in uno studio, in un consultorio matrimoniale, eccetera, da dove, su sua indicazione, viene fuori che io soffrivo di una patologia di tipo bipolare. bipolare, cosa... Guardi, io me lo sento dire da una vita, da tutte le persone che... Sì, è la tipica... ti seguo dai tempi Edoardo, di Polen, Edoardo, sono un tuo fan. Me lo sono sentito dire anche stamattina, guarda, fatti vedere che secondo me tu hai dei problemi, che sei bipolare. Lo dicono sempre le donne, sempre. Sì, quando sì, hanno qualcosa che non capiscono di un uomo, dicono sempre sei bipolare, sei matto. Sì, perché sì. Uno o è totalmente, radicalmente asservito, se no è matto. Quindi lei si è curato una depressione che non aveva. No, no, mi è costato questo problema una CTU del tribunale, cioè due CTU del tribunale. Ah, ne hanno fatto una diagnosi di vabbè, mi resta no, bipolare. No, no, tempo, mi hanno riconosciuto completamente sano e hanno riconosciuto lei con dei grossi problemi di narcisisti, di dei grossi problemi notevoli. Ecco, vabbè, dopo... narcisista, questa è la seconda cosa, dopo bipolare ti dicono sei narcisista. Potrei chiamare... aveva dei... No, ma poi aveva anche degli altri problemi che sono lì, adesso non ricordo esattamente cosa vabbè, mi... Era poverina, era un cervello un po' ribelle. Non per colpa sua, poi... E alla fine che ha fatto questa? Dopo tutte questi... Perché abbiamo allora mi ha rubato la vita, ha cominciato a distruggermi. Nel frattempo siamo venuti a vivere in Sardegna, perché lei voleva ritornare qui. Abbiamo preso un ristorante con i quattrini miei, chiaramente. Cioè, beh, però io purtroppo all'epoca possedevo degli immobili, delle cose, quindi ho detto, facciamo la società, tu fai l'amministratrice, così mettiamo al sicuro, non si sa mai, mettiamo al sicuro le cose. Che quindi avere, scusi, no? Lei, non però, è che... scusi lei è un manager e si occupa di aziende, di gestione, non aveva capito il buongiorno, cioè questa già dava segni di matto, l'ha fatta ingiustamente passare attraverso un percorso di terapia che non ne aveva bisogno, è risultata lei no, con ma qualche... Questo è successo dopo. Io sto anteponendo i fatti, attenzione. Quindi sto probabilmente non sto andando cronologicamente nel modo giusto. E quello dobbiamo capire che ti ha fatto di male. Ancora non ti ha fatto niente di male. Sì, ti ha detto che sei matto, ma tutte le mogli lo dicono, tutte le fidanzate, le amanti. Sì. Quindi non è un problema questo. Sei in Sardegna, hai messo su la tua aziendina di accoglienza. Il problema nasce nel momento in cui questa presunta ipotesi di bipolarismo doveva essere curata col litio. Io sono il litio è il caso più pesante, nel senso che... Ma io sono completamente allergico e ho cominciato a perdere... Ma tu stavi bene, capacità. Perché chi prende il litio ha veramente problemi, gente che ha veramente dei grossi problemi. Ma io non ne avevo bisogno. Ma un medico non prescrive il litio a una persona se veramente non ha delle crisi depressive fortissime. Certo, ma infatti erano tutte queste crisi, erano perché era lei che diceva, che descriveva tutto, erano tutte una ma tu, scusa, un depresso è depresso, guarda il muro, se ne sta una settimana a parlare con i medici senza di me. Sì, ma i medici se non fanno una diagnosi fidano di quello che dice una moglie. Ma la diagnosi l'aveva fatta lei, questo è il risultato dagli atti processuali. Mi spiego. Scusa, cosa ma il medico ti guarda prima di prescriverti un farmaco così potente, ti fa un esame ho perso importante. La capacità di leggere. Avevo i tremoli alle mani, non riuscivo più a scrivere. Oh, dimmi che ti ha talmente sfettucciato i coglioni che a un certo punto ti è venuto veramente qualche problema. Allora ho preso e ho smesso il litio. Con il litio? Ho cominciato di nuovo a star bene, poi di nuovo sono stato male e ho scoperto che mi metteva di nascosto il litio negli alimenti. Vabbè, ti stava avvelenando, vabbè, un caso allora, tipo. Vai avanti allora, vai avanti. Andiamo avanti, arriviamo a chiedere, lei chiede il... Parliamo, io voglio divorziamo benissimo, non c'è nessun problema. Quello facciamo che una consensuale, se semplicemente sì, nessun problema. Dormivamo nello stesso letto, una mattina mi suona il campanello a casa e mi arriva un'ingiunzione del tribunale per una separazione giudiziale. T'aveva preceduto, lo so. Sì, certo. No, non ho capito. Vabbè, al di fuori di questo. Con la scusa che io avevo questa presunta diagnosi di bipolarismo, mi porta via mia figlia che nel frattempo era nata, la piccola, era nata una bambina a cui ammetto... Sto cominciando a tremare mentre l'ascolto, vai avanti. Sì, allora, quindi... Per 2 anni e mezzo io non ho potuto vedere mia figlia, per 2 anni e mezzo, dai 3 anni fino ai 5 anni e mezzo circa. Dopodiché mi costringeva a vederla in situazioni assurde e io cominciavo a pensare... giuro su Dio niente perché sono ateo, quindi non... Vabbè, giuri su quello che vuole. Comunque, giuro su quello che vuole. Comunque, ho detto, io questa la devo ammazzare, la devo far fuori. Ah, quindi il finale, le piende che lei l'ha ammazzata? No. Ah. Io cominciavo a pensare che era la soluzione migliore. Sì. Era la soluzione migliore. Cioè, è brutto dirlo perché non si ammazza mai una persona, però... Ero ero talmente fuori e quindi, di me, come ha fatto? Mi aveva sì. Arriviamo però, la figlia. Ho capito, arriviamo a questa vendetta. Fin qua è allora, un quadro. Sono stato dei mesi che escogitavo e cercavo di pensare il miglior sistema per farla franca. Ah, quindi lei diciamo, ha allucinato un omicidio. Ha pensato per alcuni mesi come ucciderla senza essere punito. Improvvisamente. E questo è anche pensarlo, è anche terapeutico se uno non lo fa. Dice, io voglio. Sì, sì. Ma questo mi ha insegnato una cosa. Mm. Ho capito che se volevo una vendetta giusta, dovevo seguire le vie normali. E cioè? Farla allora ammazzare da un altro. Sono andato in tribunale e ho portato tutte le mie tesi, ho portato tutto in concordo con i miei avvocati, perché giustamente bisogna seguirli gli avvocati. Certo, questo vedi, c'è un lieto fine in questa puntata che può sembrare cinica sì, e istigatrice. C'è un lieto fine. Lei ha fuggito la tentazione di una vendetta cruenta, certo. Si è evitato un femminicidio che certo. L'avrebbe portata alla distruzione, certo. E quindi ha detto a un certo punto mi affido alla legge, e la legge le ha dato giustizia. Mi ha dato giustizia in tutti i campi. Anche se lei poi ha ricorso in appello, ha perso ulteriormente l'appello e gli hanno chiesto per favore di lasciarmi in pace, di non mettersi più in mezzo e di farmi vedere mia figlia quando come voglio, assolutamente, senza più darmi Edoardo, del patto. Quanto le è costato tutto questo gioco? Mi è costata una vita, mi è costata. Cioè, quanto è durato l'iter giudiziario? L'iter giudiziario è durato 5 anni. Cinque? E in questi anni lei pensava ogni giorno come ammazzarla? Ecco, ho pensato i primi 6 mesi come. Ecco, in questi 6 mesi, quali erano le tecniche che aveva messo a punto? Quella che le avrebbe dato più soddisfazione? Me ne dica qualcuna, perché almeno. Fucili telecomandati. La cosa più complicata del mondo, fucili telecomandati, ma nemmeno Topolino faceva. Cioè, dei fucili con delle esche, lei passava col telecomando. No, io conosco molto bene l'elettronica, potevo farlo benissimo. Quindi lei come prendeva un fucile, ci metteva un relè, come faceva? Un relè. No. Telecamera, sistema infrarossi. Sì. Comandato a distanza anche da 3-4 km di distanza tramite Come faceva a sparare il grilletto? Cosa lo pigiava il grilletto? No, il grilletto lo pigiava semplicemente un servo meccanismo passo passo controllato elettronicamente. Un servo meccanico, cioè è un insieme di meccanica e elettronica. Certo, elettromeccanica. Lei ha proprio disegnato, ha fatto il progetto di questa trappola? Sì, ho fatto dei 1000 disegni, mille cose, ma. E il fucile che calibro avrebbe scelto? Chiaro, un 22. Perché un calibro così piccolo? Scusi, allora uno spara fa un 12 a pallettoni e almeno è sicuro. No, il 22 di precisione è quello che fa molto più danno di questo. Sì, se ha la pallottola d'un dum, però se no. No, la pallottola no, sono cose. Il 22 è la cosa migliore. Alla fine. È molto più preciso e molto più. Alla fine, come vede, abbiamo tirato fuori anche il suo lato crudele, perché è giusto pensare di affidarsi alla legge, al braccio secolare della legge, ma è altrettanto giusto elaborare qualcosa talmente folle, talmente irreale, talmente improbabile, come la trappola elettronica per sparare alla moglie. Alla prossima.